Terzo anello ad alta voce. Lord Jim di Joseph Conrad. Tutto comincia, come le ho detto, con un uomo di nome Brown. Diceva la prima frase della narrazione di Marlowe. Avendo girato molto nel Pacifico occidentale, deve aver sentito parlare di lui, anche se non si faceva vedere spesso da quelle parti. Era il furfante più famoso della costa australiana, perché saltava sempre fuori in quelle storie di illegalità che si raccontano ai visitatori provenienti dalla madrepatria. E la meno grave di queste storie, che si ripetevano da Cape York a Eden Bay, sarebbe stata più che sufficiente a farlo impiccare se riferita nel luogo giusto. E non mancavano mai di farvi notare che passava per essere figlio di un baronetto. Comunque stiano le cose, è certo che ai vecchi tempi dei cercatori d'oro disertò da una nave che tornava a casa, diventando in pochi anni il terrore dei diversi gruppi di isole della Polinesia. Era insomma l'ultimo bucaniere, tristo come i suoi più celebri prototipi. Ma ciò che lo distingueva dalle altre canaglie del suo tempo, come Bully Ace o il Suave Peace, o quell'elegante profumato mascalzone con fedine alle guance noto come Dirty Dick, era l'arroganza dei suoi misfatti e l'assoluto disprezzo che manifestava per il genere umano in generale e per le sue vittime in particolare. Gli altri erano semplicemente avidi e volgari delinquenti, ma egli sembrava mosso da ragioni più complesse. Depredava qualcuno solo per dimostrare la scarsa stima che ne aveva, e nello sparare o nel ferire qualche tranquillo e innocuo forestiero metteva una serietà feroce e spietata che sarebbe stata sufficiente a terrorizzare il più audace fra i banditi. Nei giorni del suo massimo splendore possedeva un brigantino armato che aveva riempito con un equipaggio eterogeneo di canaca e di fuggiaschi balenieri, e affermava con orgoglio, non so con quanta verità, di essere occultamente finanziato da una rispettabile ditta di commercianti di copra. In seguito scappò, così si narrava, con la moglie di un missionario, una donna molto giovane, originaria delle parti di Clapham, che in un momento di entusiasmo aveva sposato quell'uomo mite dai piedi piatti e che, scaraventata così all'improvviso nella Melanesia, aveva perso la Trebisonda. Fu una storia oscura. Al momento della fuga la donna era ammalata e morì a bordo della nave. Si dice, ed è la cosa più sorprendente di tutto il racconto, che davanti al suo corpo egli si sia lasciato andare a un'esplosione di dolore cupo e violento. Subito dopo anche la fortuna lo abbandonò. Perse la nave su una scogliera al largo di Malaita e per qualche tempo sparì dalla circolazione, come se fosse affondato con l'imbarcazione. In seguito si sentì nuovamente parlare di lui a Nukaiva, dove comprò dalle autorità marittime una vecchia goletta francese. Quale notevole impresa avesse in mente quando fece quell'acquisto non saprei dire, ma è evidente che con il moltiplicarsi di alti commissari, consoli, navi da guerra e controlli internazionali, i mari del sud stavano cominciando a scottare per un gentiluomo del suo stampo. Evidentemente aveva spostato più a ovest il suo raggio d'azione, perché un anno dopo partecipa a un'impresa tragicomica, incredibilmente audace, pur se non molto remunerativa, nella baia di Manila, che ha per protagonisti un governatore corrotto e un tesoriere fuggito con la cassa. In seguito pare che si sia aggirato per le Filippine sul suo cadente brigantino, perseguitato dall'avversa fortuna, finché, proseguendo per il suo cammino prefissato, non attraversò la strada di Jim, complice inconsapevole delle forze oscure. Secondo la sua versione, egli stava semplicemente cercando di consegnare delle armi agli insorti quando fu catturato da una lancia spagnola. Ma in questo caso non riesco a capire che cosa stesse facendo al largo della costa meridionale di Mindanao. Comunque, la mia opinione è che vivesse di estorsioni ai danni dei villaggi indigeni della costa. In ogni caso, il fatto principale è che dopo essere stato agganciato, fu obbligato a fare rotta verso Zamboanga. Lungo il percorso, le due imbarcazioni dovettero fare scalo, per qualche ragione, in uno dei nuovi insediamenti spagnoli, che poi finirono per essere abbandonati, dove c'erano non solo un funzionario civile a terra, ma anche una solida goletta costiera all'ancora nella piccola baia. E questo naviglio, che da ogni punto di vista era migliore del suo, Brown si mise in mente di rubarlo. La sorte lo aveva abbandonato, mi disse. Quel mondo che egli aveva tiranneggiato per 20 anni con un disprezzo così feroce e protervo non gli aveva lasciato nulla dei suoi beni materiali, se non una piccola borsa di dollari d'argento nascosta nella sua cabina con tanta cura che non l'avrebbe trovata neanche il diavolo. Non aveva altro, nient'altro. Era stanco della vita e non temeva la morte. E tuttavia quest'uomo, che per un capriccio avrebbe messo a repentaglio la propria esistenza con un ghigno noncurante e beffardo, aveva una terribile paura della galera. Di fronte alla semplice possibilità di essere rinchiuso in prigione, era preso da uno spavento irrazionale che gli faceva venire i sudori freddi, gli sconvolgeva i nervi e gli trasformava il sangue in acqua. Lo stesso terrore che proverebbe un uomo superstizioso al pensiero di essere abbracciato da uno spettro. Fu così che il funzionario civile che venne a bordo per le indagini preliminari sugli arrestati lavorò intensamente per tutto il giorno e tornò a terra solo dopo il tramonto, avvolto in un mantello e facendo molta attenzione a non far tintinnare nella borsa il piccolo gruzzolo di Brown. In seguito, essendo un uomo di parola, fece in modo, penso quella stessa sera, di allontanare la lancia adducendo qualche servizio urgente. Non volendo staccarsi dal suo prezioso equipaggio, il comandante si limitò a togliere alla goletta di Brown, prima di partire, tutte le vele fino all'ultima striscia di stoffa e a preoccuparsi di rimorchiare le sue due scialuppe fino alla spiaggia, a una distanza di un paio di miglia. Fra gli uomini della ciurma di Brown c'era un isolano delle Salomone, il migliore di tutta la banda, che era stato rapito da ragazzo ed era devotissimo al padrone. Costui arrivò a nuoto fino alla nave guardacoste, a circa 500 metri, stringendo l'estremità di un cavo da tonneggio che era stato ricavato sciogliendo e riannodando tutto il sartiame della goletta che occorreva per tale operazione. L'acqua era calma e la baia nera, come dentro al ventre di una vacca, disse Brown. L'isolano delle Salomone salì per la murata con il capo della cima stretto fra i denti. I marinai, tutti tagalog del vicino villaggio, erano andati a terra a far baldoria e i due rimasti di guardia, svegliatisi di soprassalto, si trovarono di fronte a un demonio che schizzava per il ponte come un invasato, mandando lampi dagli occhi. Caddero in ginocchio, paralizzati dalla paura, e fattosi il segno della croce, cominciarono a biascicare preghiere. Con un lungo coltello trovato nella cambusa, l'isolano delle Salomone li uccise uno dopo l'altro, senza interrompere le loro orazioni. Quindi, con lo stesso coltello, cominciò a segare pazientemente la fibra di cocco dell'ancora, finché non cedette alla lama, ricadendo in acqua con un tonfo. Poi, nel silenzio della baia, emise un cauto grido. E tutta la banda di Brown, che nel frattempo era rimasta in vigile attesa nell'oscurità, tenendo occhi e orecchie ben aperti, cominciò a tirare la propria estremità della cima. Thank you. In meno di 5 minuti le due golette si trovarono affiancate, urtandosi leggermente con i pennoni che cigolavano. Tutti gli uomini di Brown passarono da una all'altra, senza perdere un istante, portando con sé le armi da fuoco e una grossa scorta di munizioni. Nessuno di loro si preoccupava di ciò che l'aspettava, ma Brown, che pure non temeva la forca, li aveva piegati alla sua ferma volontà, e Brown stava sfuggendo ad ogni costo allo spettro del carcere spagnolo. Non diede loro neppure il tempo di trasbordare provviste sufficienti. La serata era bella e l'aria carica di rugiada, e quando mollarono gli ormeggi e misero le vele a un debole vento di terra, non vi fu alcuno sventolio dell'umida tela. La loro vecchia goletta parve staccarsi dolcemente dal naviglio rubato e scivolare via, silenziosa nella notte, insieme con la massa nera della costa. Fuggirono senza indugi. Brown mi raccontò nei particolari il passaggio per lo stretto di Macassar. È una storia tormentosa e disperata. Erano a corto di cibo e d'acqua e se ne procurarono un po' assaltando diverse piccole imbarcazioni indigene. Naturalmente, essendo a bordo di una nave rubata, Brown non osava fare scalo nei porti. Oltre a non disporre di denaro per comprare alcunché, non aveva né documenti da esibire né scuse plausibili che gli consentissero di uscirne. L'idea di Brown era di fare rotta per il Madagascar, dove aveva motivi, non del tutto infondati, di vendere la goletta a Tamatav senza che gli facessero troppe domande, o magari di ottenere dei documenti di bordo più o meno falsificati. E tuttavia, prima di affrontare quel lungo passaggio nell'Oceano Indiano, occorrevano cibo e acqua. Chi avesse già sentito parlare di Patusan, o che gli fosse solo capitato di vederne il nome scritto in piccolo sulla mappa, si era fatto l'idea che fosse un villaggio di discrete dimensioni in riva a un fiume in uno stato indigeno, del tutto privo di difese e lontano dai percorsi più battuti del mare e dalle stazioni terminali dei cavi telegrafici sottomarini. Aveva già fatto scorrerie di questo genere per soldi, ma questa adesso era diventata un'assoluta necessità, una questione di vita o di morte. O meglio, di libertà. La libertà. Era sicuro di ottenere provviste, manzi, riso, patate dolci. Quella banda di disperati si leccava già i baffi. Si poteva forse estorcere un carico di vettovaglie per la goletta e magari, chissà, anche del denaro in belle monete sonanti. Alcuni di questi capi e capi villaggi si lasciano convincere facilmente a separarsi dalla loro roba. Mi disse che piuttosto che vedere fallire i suoi piani avrebbe bruciato loro la pianta dei piedi, e gli credo. Anche i suoi uomini gli credevano. Essendo uomini taciturni, non esplosero in manifestazioni di gioia, ma si prepararono all'impresa come lupi famelici. Il tempo era dalla sua parte. Pochi giorni di bonaccia avrebbero portato orrori inenarrabili a bordo della nave, ma con l'aiuto di venti di terra e di mare, egli poté gettare l'ancora, dopo meno di una settimana dal passaggio dello stretto della sonda, al largo della foce del fiume, a Bato Kreng, a un tiro di schioppo dal villaggio di pescatori. 14 di loro si stiparono sulla barcaccia della goletta, che era grande e veniva di solito usata per i carichi, e partirono risalendo il fiume, mentre 2 rimasero a guardia della nave con una quantità di cibo sufficiente a sopravvivere per 10 giorni. Furono aiutati dai venti e dalla marea, e alle prime ore di un pomeriggio quella grande imbarcazione bianca con una vela lacera, con la brezza in poppa, sbucò dal fiume dirigendosi verso Patusan, con a bordo 14 spaventapasseri affamati che guardavano davanti a sé, accarezzando le culatte dei loro malandati fucili. Brown faceva affidamento sul terrore provocato da quell'attacco a sorpresa. Entrarono con l'ultimo flusso della marea. Dalla palizzata del Rajah non proveniva alcun segno. Su entrambe le rive le case parevano abbandonate. Lungo il fiume si videro alcune canoe fuggire in tutta fretta. Brown fu sbalordito dalle dimensioni del luogo. Regnava un profondo silenzio. Fra le case il vento era caduto. Furono messi in acqua 2 remi per tenere ferma la barca, impedendole di muoversi con la corrente. Era sua intenzione creare una testa di ponte nel centro della città prima che gli abitanti potessero organizzare la resistenza. Thank you. Sembra però che il capo del villaggio di pescatori a Batokring fosse riuscito a dare l'allarme e quando la barcaccia fu all'altezza della moschea, la piazza antistante era piena di gente. Si alzò uno strillo seguito da un clangore di gong lungo tutto il fiume. Dall'alto si udirono i boati di due piccoli cannoni d'ottone le cui palle scesero sullo specchio d'acqua vuoto, sollevando alti getti d'acqua che scintillarono al sole. Davanti alla moschea, una schiera di uomini urlanti cominciò a sparare scariche che attraversarono diagonalmente la corrente del fiume. La barca fu investita da entrambe le rive da fucilate irregolari, ma sempre più vicine, cui gli uomini di Brown risposero con un fuoco rapido e intenso. I remi erano stati tirati a bordo. Brown, pur sconcertato, reggeva saldamente il timone, mentre in lui montavano una grande rabbia e un odio profondo contro quella gente che usava difendersi. Due dei suoi uomini erano stati feriti, e al di sotto della città si vedeva tagliare la ritirata da alcune barche che si erano staccate dalla staccionata di Tunqualang. Ce n'erano sei, piene di uomini. Mentre era così alle strette, scorse l'entrata del fossato, lo stesso che Jim aveva saltato durante la bassa marea, che in quel momento era pieno d'acqua. Vi si diressero e sbarcarono, e per farla breve si sistemarono su una piccola altura, circa 800 metri dalla palizzata, che in effetti dominavano da quella posizione. I fianchi del colle erano spogli, ma sulla sommità c'erano alcuni alberi. Si misero subito a tagliarli per farne un parapetto difensivo, e prima del buio avevano già approntato un buon sistema di protezione. Nel frattempo, le barche del Rajah rimasero dove erano in uno strano atteggiamento di neutralità. Brown ordinò di bruciare l'erba intorno alla sua fortificazione e il basso anello di fuoco sottile sotto il fumo che saliva lentamente si diffuse rapidamente lungo il pendio della collina, raggiungendo qua e là dei cespugli che subito avvampavano con un fragore alto e sinistro. Spianata in tal modo la visuale ai fucili del piccolo manipolo, il piccolo incendio si spense a poco ai margini delle foreste e lungo la sponda fangosa del fossato. Brown prevedeva che l'attacco sarebbe stato sferrato non appena la marea fosse risalita a un punto tale da permettere alle barche armate che gli avevano tagliato la fuga di entrare nel fossato. In ogni caso era certo che avrebbero fatto un tentativo per portar via la sua barcaccia che era rimasta sotto l'altura e ora appariva come un'alta massa buia al debole luccichio del fondo fangoso. Ma le barche sul fiume non si mossero. I 14 disperati invasori, sdraiati al di sotto dei tronchi abbattuti, sollevavano di tanto in tanto il mento ad osservare la vita palpitante di quella città che sembrava estendersi a monte per miglia e miglia e brulicare di migliaia di uomini furiosi. Non parlavano. Di quando in quando udivano strilli acuti e spari isolati che venivano da grande distanza, ma intorno alla loro postazione tutto era calmo, buio, silenzioso. Sembrava che li avessero dimenticati, come se l'eccitazione che teneva sveglia tutta la popolazione non avesse nulla a che fare con loro, come se fossero già morti. Thank you.